Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo podcast. Io mi chiamo Ettore e oggi vi parlerò del progetto Anemmu insieme a Irene, Camilla e Matteo, che vi racconteranno poi in seguito il progetto nello specifico. Io vi racconto di come è stato seguito questo progetto da parte del Presidio Montalbano di Libera del Liceo VS di Imperia. E in realtà in quest'ultimo anno, nel 2019-2020, il testimone è stato passato al presidio Livatino, sempre di Libera, del liceo Cassini di Sanremo. Le attività hanno riguardato la creazione di un fotoromanzo in cui appunto si raccontava una storia, e questo ha permesso di mettere insieme ragazzi in messa alla prova e in generale studenti del liceo VSE appunto negli anni passati, così come la creazione di un cortometraggio ha permesso di unire studenti, ragazzi messi alla prova e ragazzi disabili del centro HELP di Imperia. In particolare per queste due iniziative l'obiettivo è stato proprio quello di unire contesti diversi e permettere a ragazzi che difficilmente sarebbero venuti in contatto gli uni con gli altri di confrontarsi, di scambiarsi opinioni, di discutere insieme e di partecipare alla creazione di un lavoro di gruppo. Quindi in qualche modo, seguiti dalla consulenza di un regista, di un esperto in storytelling, imparare a lavorare insieme e impegnarsi tutti insieme, ognuno secondo le proprie capacità e le proprie, diciamo, conoscenze, per perseguire un obiettivo. Inoltre, un'attività a cui hanno partecipato sempre i ragazzi alla messa alla prova insieme agli studenti del liceo VSE di Imperia è stata quella di lavorare all'Uliveto nella Pace. L'uliveto della pace cos'è? È un bene della provincia, come dice il nome appunto, un uliveto sperimentale in cui venivano coltivate negli anni passati, diciamo verso fino alla metà più o meno del Novecento, oltre 200 varietà di olive diverse. Questo bene è di proprietà della provincia ed è stato dato in concessione alla scuola, appunto al liceo VSE, insieme a Libera Nazionale, insieme ad altre associazioni, per lavorarci insieme dentro. Cosa si è fatto all'Uliveto? Allora, si sono fatte attività di formazione, per esempio, sui temi di mafia, antimafia e molti altri incontri, diciamo, su temi anche della letteratura che riguardavano il nostro territorio in particolare. Anche questi unendo, appunto, attività di volontariato dei ragazzi messi alla prova e magari anche attività di alternanza scuola-lavoro per gli studenti. Attività che quindi hanno riguardato il rimettere, diciamo, a nuovo un bene che non era più seguito da molti anni, e quindi si è riusciti a lavorare insieme, a fare anche proprio attività manuali, ovvero imparare a lavorare la terra e a raccogliere le olive per ridonare in qualche modo un bene comune alla comunità. E queste sono, diciamo, solo alcune delle attività che hanno riguardato il progetto Anemmu, che hanno appunto l'obiettivo di far stare insieme ragazzi di contesti diversi, e poi gli altri, Irene, Camilla e Matteo, vi spiegheranno bene nello specifico altre caratteristiche peculiari di questo progetto. Racconterò brevemente che cos'è il progetto Anemmu. Il progetto Anemmu nasce nel 2012 a Genova, dopo la firma di un protocollo d'intesa tra Libera e il Centro per la Giustizia Minorile della Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, e che per anni ha coinvolto centinaia di ragazzi che frequentavano la messa alla prova, MAP. Anemo è nato da una scorta dell'esperienza dei ragazzi di Amunì di Palermo. Il dialetto cambia, ma il concetto è sempre lo stesso. Per uscire dal dialogo bisogna muoversi, andare, crescere e cambiare. Anemo è infatti un'esortazione al cambiamento. Nel territorio genovese il progetto è seguito da alcuni volontari del presidio Francesca Morvillo di Libera, dall'associazione DES e da due operatori del Museo di Genova. Oltre ad essere presente a Genova, il progetto Anemo è stato avviato anche nella provincia di Imperia, da 2 anni a questa parte. Il primo anno il progetto si è svolto in Imperia con i ragazzi del presidio Montalbano, del liceo scientifico e classico BSE e dei ragazzi messi alla prova. Quest'anno il progetto si svolge a Sanremo con i ragazzi messi alla prova e con i ragazzi del liceo Cassini. Anche in questo caso il progetto è seguito da volontari di Libera Imperia, dall'associazione Pace, Lavoro e Legalità e dagli operatori dell'USM di Genova. Io faccio parte di questo progetto come volontario di Libera Imperia e lo seguo da 2 anni a questa parte. Con il progetto Anemo di Genova Imperia ho partecipato al 21 marzo 2019 a Padova, dove abbiamo incontrato i gruppi di Milano e Firenze che fanno parte anche loro. Del progetto Amunì. Comunque l'esperienza del 21 marzo 2019 a Padova mi è piaciuta, anche perché ho conosciuto altri volontari di Libera che seguivano i propri ragazzi e facevano la messa alla prova. Quest'anno al progetto Anemo ho partecipato poco, però mi interessa parteciparvi anche in futuro e se posso continuerò a farne parte. Il mio viaggio in Libera ha inizio nel febbraio 2017. Avevo quasi 17 anni quando ho iniziato come volontario per Libera, all'Uliveto della Pace, insieme ai ragazzi del presidio Vieu Seux. Nell'Uliveto, bene della provincia in cui ci sono piantati più di 32 varietà di piante di olivo, all'inizio eravamo una squadra numerosa di volontari che si occupavano della manutenzione delle piante finché siamo rimasti in 3, pochi ma buoni. Come attività svolgevo potatura, piantagione, dare da bere alle piante, ristrutturare i muretti a secco con il maestro dei muretti a secco Gabriele e pulizia delle fasce con Beppe e altri ragazzi. Andavo ogni lunedì mattina fino all'ora di pranzo. Mi è piaciuto molto e da lì ho portato avanti il cammino assieme a Libera, con riunioni di formazioni, testimonianze di persone che si sono ribellati alla mafia, come Rocco Mangiardi. Sono iniziati anche gli incontri con il gruppo di Genova per visitare i beni confiscati per il centro storico, raccontando la storia dei locali con i graffiti sulla sala cinesca. Ci hanno spiegato anche le attività illegali svolte all'interno dei negozi. Poi ho partecipato a Sanremo, nella Sala dei Fiori, a Musica contro le Mafie, e lì ho segnato i titoli ai vincitori di quell'edizione davanti ai ragazzi della scuola della provincia di Imperia e Sanremo. Da lì ho avuto di nuovo l'occasione per il 21 marzo di essere presente nuovamente per il discorso di Don Ciotti per le scuole. Fu la prima volta che conoscevo Don Luigi. Abbiamo pranzato a Doneglia, nell'associazione Arci, con i ragazzi di Libera. Da lì formazione e incontri con il gruppo Genova e si parte per Padova per il 21 marzo, giornata della memoria delle vittime di mafia. E in quei 3 giorni di permanenza a Padova abbiamo incontrato la forestale con cui abbiamo ripulito un sentiero. Il secondo giorno abbiamo assemblato le bandiere di Libera che sarebbero poi state distribuite in piazza all'inizio della manifestazione. La mattina del 21 marzo eravamo molto carichi come gruppo. Ognuno aveva un ruolo, chi distribuiva le bandiere, chi era le bancarelle, chi distribuiva i volantini. Quella mattina c'era un'energia straordinaria, era magico. Tantissime le scuole presenti in piazza per il 21 marzo. abbiamo svolto il corteo di manifestazione con la musica e le bandiere di Libera che formavano un arcobaleno, fino ad arrivare in piazza e assistere alla lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia. Il progetto ANEMU dà l'opportunità di conoscere la corruzione mafiosa anche all'interno della politica nord, con formazione, approfondimento e consapevolezza. Ora parliamo della mia messa alla prova. La messa alla prova avviene se si commette un reato e si viene sorpresi in flagranza. Come avviene? Con la sospensione del procedimento, qui sei costretto a fare volontario, giustizia riparatoria. In base alla gravità del reato, il giudice decide la durata della messa alla prova. Io, come esperienza personale, la mia messa alla prova è durata all'incirca 12 mesi, che ho svolto attività di volontario, di volontariato, appunto, all'interno dell'Uliveto della Pace, e ho portato a termine la messa alla prova con esito positivo. Così il reato commesso viene eliminato dalla fedina penale, in caso di fallimento invece rimane stampato sulla fedina penale. Ciao, sono Camilla, frequento il quarto anno del liceo scientifico a Sanremo e faccio parte di Libera dall'anno scorso. Quest'anno mi è stato proposto di partecipare al progetto ANEMU e inizialmente devo ammettere di essere stata sia interessata che stupita, perché da un lato l'iniziativa mi incuriosiva, dall'altro non capivo come ragazzi provenienti da contesti tanto diversi potessero riuscire a condividere idee e valori e creare rapporti che non fossero superficiali in così poco tempo. Durante l'anno abbiamo partecipato a diversi incontri in cui abbiamo parlato del concetto di felicità, affiancati da un educatore, e abbiamo scritto una canzone assieme a Chiara F., una cantautrice torinese. Terminato il progetto, posso dire di essere felice di aver vissuto questa esperienza, che è, ancora prima di un'esperienza di formazione, un momento di condivisione. Di aver fatto parte di un gruppo in cui ognuno poteva esprimere idee e opinioni senza sentirsi giudicato e di aver imparato ad abbattere ogni forma di pregiudizio, perché ciò che unisce è più forte di ciò che divide.